Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buonasera, era Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Allora, qualche ascoltatore ci ha scritto un po' preoccupato in questi giorni, ma insomma, siamo in autunno, in qualche città le temperature hanno già cominciato a rinfrescarsi, ad abbassarsi, ma non fate ancora la trasmissione sulla manutenzione della caldaia, sulla revisione, sul controllo dei fumi? E allora, la domanda ogni anno è ricorrente, in questo periodo dobbiamo fare questo controllo della caldaia? Noi allora li abbiamo prontamente accontentati, questi ascoltatori che ci hanno sollecitato in questo senso, perché tra l'altro, lo ricorderete bene, questo tema è un grande cavallo di battaglia autunnale del nostro programma. Allora, pronti? Tra l'altro mi aveva anche incuriosito un'altra cosa, e sarà capitato probabilmente anche a molti di voi in questi giorni. Io sto trovando molto materiale pubblicitario nella cassetta della posta, con le tariffe proposte da molti idraulici, manutentori, proprio per effettuare questo lavoro. E allora, anche lì, se non abbiamo un professionista di fiducia al quale rivolgerci, come scegliamo? E che cosa ce ne facciamo, per esempio, di questo documento che circola in casa da un po' e non ci ricordiamo come è stato possibile appunto che ce l'avessimo? Cosa ce ne facciamo del libretto d'impianto? Un sacco di domande che ci daremo stamattina all'ormai collaudata squadra di questo periodo per affrontare ogni anno questo tema, composta da Pieraldo Isolani, responsabile settore energia e ambiente di Adiconsum. Isolani, bentornato. Buongiorno, buona giornata a tutti. Grazie anche a Luca Falco, presidente dei bruciatoristi manutentori di Confartigianato. Falco, buongiorno e bentornato anche a lei. Buongiorno a tutti e grazie di avermi invitato. 800 24 00 24, il numero verde per le domande degli ascoltatori. Allora, quelli che ci hanno scritto nei giorni scorsi alla mail di Salva Danaio, magari se stamattina volessero intervenire lo possono fare. Io tra l'altro ho anche una lettera invece di un ascoltatore, di Andrea da Mestre, che ci ha scritto questa mattina, tra un po' la leggerò senz'altro. Ricordo che avete anche un'altra opzione per sollecitare sollecitarci con le vostre considerazioni, il 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. Andiamo un po' a vedere la borsa stamattina come si comporta. Allora, intanto movimentatissima la seduta sul mercato valutario. Oggi decisione della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse alle 13.45 come sempre, poi alle 14.30 conferenza stampa del governatore della BCE Trichet, e poi materie prime assolutamente in fermento. L'oro stamattina al suo nuovo massimo storico a $1,364,60 l'oncia. Il petrolio è intorno agli $84 al barile. Euro in impennata contro il dollaro, stamattina è arrivato a 1,39,90. Quindi ad un soffio da 1,40, adesso è a 1,3975. Il dollaro sempre più giù sullo yen, ai minimi da 15 anni a questa parte. Il rapporto di cambio fra biglietto verde e divisa giapponese è a 82,48 in questo momento. Euro su yen a 115,26, quindi un mercato che probabilmente oggi non mancherà anche di essere l'oggetto delle riflessioni del numero 1 della BCE Trichet. Le borse sono partite in maniera proprio stentata, hanno fatto fatica a prendere una direzione, adesso sembra un po' più chiara. Parigi più 0,27%, Francoforte più 0,12%, Londra più 0,09%, Milano stamattina si mette nettamente in evidenza perché sta guadagnando lo 0,75% sul FTSE MIB. In luce Tenaris, probabilmente titolo anche un po' mosso da questo movimento a rialzo delle quotazioni delle materie prime, più 2,75%, Parmalat più 2,20%, Banco Popolare più 1,76%, Atlantia, la ex Autostrade più 1,56%, Mediaset stamattina si era messa in luce subito in avvio di contrattazioni perché si sta discutendo di un possibile, ci sono almeno queste indiscrezioni giornalistiche, ingresso nella compagine azionaria di investitori, soci russi. Fininvest ha smentito seccamente, ma intanto il titolo continua a correre. Il segno meno stamattina invece coinvolge un titolo che nei giorni scorsi è cresciuto molto, Buzzi Unici, meno 1,83, Saipem meno 0,6, viaggio in controtendenza rispetto ai petroliferi, Azimut meno 0,6, STM meno 0,46%. Credo che le cose più importanti di questa seduta di borsa le abbiamo dette, adesso andiamo al tema di oggi e ritorniamo ancora una volta con quello che ho definito il grande cavallo di battaglia autunnale di Salva Danaio, che è naturalmente la manutenzione della nostra caldaia. L'arrivo del mese di ottobre, ma soprattutto le condizioni meteorologiche degli scorsi giorni, avranno fatto venire in mente a molti l'ormai prossima accensione degli impianti di riscaldamento. I termosifoni potranno riattivarsi in momenti diversi nelle 6 zone climatiche in cui è diviso il territorio nazionale a seconda della collocazione geografica e dell'altitudine, e ad alcune di queste non resta che qualche settimana di attesa. Come ogni anno, sarà importante verificare che tutto funzioni al meglio e sia in regola con la normativa vigente per il riscaldamento centralizzato e per quello autonomo. Nel primo caso, che riguarda i condomini e tutti gli altri impianti con potenza maggiore o uguale ai 35 kW, sono necessari i controlli annuali. Un quadro più articolato per gli impianti di potenza inferiore ai 35 kW, che comprende la maggioranza degli appartamenti autonomi. Ad esempio, una caldaia installata da meno di 8 anni richiede verifiche ogni 4, dopodiché il controllo sarà necessario ogni 2. Per vederci più chiaro, il Ministero dello Sviluppo Economico l'anno scorso ha diffuso un vademecum, reperibile sul sito internet, di istruzioni per il cittadino in merito all'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento. Quello per la corretta manutenzione resta insomma un impegno che non può essere sottovalutato, per tutelare la sicurezza in primo luogo, ma senza dimenticare che una buona efficienza energetica favorisce l'abbattimento dei costi. 800 24 00 24, vi ricordo ancora il numero verde per intervenire, e 349 238 6666, il numero invece per inviarci dei messaggi. Allora, come ricordiamo ogni volta, questo è un tema che ogni anno, adesso forse un po' meno di qualche anno fa, contrappone tecnici del settore e associazione dei consumatori, perché si è tanto discusso proprio sulle scadenze temporali con cui effettuare questi controlli. Però l'anno scorso finalmente il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto con una scaletta molto precisa degli interventi da fare. Pieraldo Isolani è di Consum, e comincio con lei perché tra l'altro se lo ricorderà, questa trasmissione l'anno scorso, proprio in attesa delle istruzioni del Ministero dello Sviluppo Economico, l'abbiamo fatta praticamente alla fine di novembre, quando in realtà gran parte delle caldaie italiane, degli impianti di riscaldamento ormai era partita. Isolani. Purtroppo sì, l'abbiamo fatta un po' in ritardo perché la discussione al Ministero è continuata qualche settimana in più del necessario. Io non ho niente da aggiungere a quello che ha detto il vostro comunicato, la vostra presentazione, perché la presa di posizione del Ministero è abbastanza precisa e quindi non lascia alcun dubbio. L'obbligo per le famiglie di fare i controlli della caldaia è quello detto ogni 4 anni, fino a 8 anni per quelle nuove, e poi ogni 2 anni. Voglio aggiungere un'altra cosa, è importante che le famiglie sappiano, i consumatori sappiano che i lavori da fare di controllo della caldaia richiedono mediamente un tempo intorno ai 30-40, dai 20 ai 40 minuti, quindi bisogna diffidare da coloro che fanno delle manutenzioni impiegando dei tempi inferiori, perché vuol dire che non svolgono fino a fondo bene il loro lavoro. E bisogna anche diffidare di chi ci mette un'ora e mezza. Diciamo che il corrispettivo richiesto sia confacente al tempo impiegato. Ecco, queste sono le altre due raccomandazioni che vorrei aggiungere a quanto è stato detto. Tra l'altro anche proprio l'ha detto ai lavori, poi sarà interessante sentire cosa potrà suggerirci a questo proposito. Però il tema è del controllo annuale, biennale o quadriennale, va specificato, perché in realtà noi appunto siamo abituati a parlare proprio in termini generali di controllo della caldaia, manutenzione della caldaia, controllo dei fumi. In realtà il controllo biennale va fatto appunto ogni 2 anni, perché si deve intervenire su un determinato tipo di questione, quello quadriennale. Quindi tante volte, come dire, noi siamo abituati a dare delle considerazioni, ad esprimerci con delle considerazioni molto generali su un tema che in realtà va precisato in alcuni punti. Allora Falco, non so se mi sono spiegata, forse ho fatto un po' di confusione, però il tema è che non è che, come dire, il tema revisione caldaia va fatta ogni anno, 2 anni o 4 anni in relazione all'età della caldaia. Ci sono 2 o 3 tipi di intervento che bisogna distinguere, come ha anche già anticipato Isolani. Ci aiuta a fare un po' di chiarezza su questo? Bisogna un attimino distinguere tra quello che il Ministero richiede come obbligo di legge relativamente alla analisi di combustione, che può variare in funzione dell'età del generatore rispetto a quello che è il controllo di sicurezza dell'impianto termico e del generatore, che quello va in funzione di cosa dice il costruttore dell'impianto di riscaldamento, quindi l'idraulico, e se non avesse detto nulla in funzione di quello che dice il produttore del generatore, un po' come se fosse il costruttore dell'automobile che ti dice ogni quanto devi effettuare i controlli per mantenere la tua caldaia in sicurezza. Credo, a parte che un produttore solo, ma vado a memoria, quasi tutti indicano come periodicità ai fini della sicurezza il controllo annuale del generatore, quindi bisogna un attimino distinguere da quello che è l'analisi di combustione, che fa parte dell'allegato G ministeriale piuttosto che F da inviare quindi all'ente poi preposto per la raccolta, che sopra i 40.000 abitanti sono i comuni, sotto i 40.000 abitanti sono le province, e bisogna anche verificare cosa l'ente preposto per le verifiche, quale periodicità ha indicato l'ente preposto per le verifiche sul proprio territorio, perché per esempio alcune regioni comunque hanno mantenuto i 2 anni come analisi di combustione, proprio perché ritengono che il risparmio energetico sia fondamentale per il consumo che hanno in quel territorio come consumo di gas. È importante che questa verifica venga fatta ogni 2 anni. Quindi paradossalmente, per una medesima caldaietta, no, quella che utilizziamo per esempio per il riscaldamento dell'acqua nella nostra abitazione, ammettendo per esempio che abbiamo, non so, il riscaldamento centralizzato, magari in una città può essere il controllo disciplinato in un certo modo, in un'altra grande città di un'altra parte d'Italia in un altro modo, Falco? Esatto. Infatti bisogna fare affidamento a quello che dicono i propri manutentori di fiducia, e in assenza di manutentori di fiducia l'associazione di categoria, che possono essere sia l'associazione dei manutentori piuttosto che l'associazione dei consumatori. No, quindi mi stavo chiedendo vengono fatte delle convenzioni apposta. No, perché allora è importante leggersi anche queste istruzioni per il cittadino che sono state pubblicate dal Ministero dello Sviluppo Economico. Noi ieri abbiamo ritirato giù di nuovo questo vademecum, poi però di fatto bisognerebbe proprio capire anche cosa succede nella città in cui si abita e che cosa stabiliscono appunto gli enti preposti alla sicurezza in questo ambito. Allora noi ci dobbiamo fermare, 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, ci sono già molti ascoltatori pronti, li cominciamo a sentire subito dopo il nostro primo break. Siamo nel pieno dell'autunno, le temperature cominciano a scendere in tutte le parti d'Italia, ad eccezione di questi giorni in cui sembra che in realtà il tempo abbia deciso di concederci un po' una tregua anche dopo tutto quello che è successo negli ultimi giorni tra la Liguria e la Toscana, insomma temperature miti, solo per pochi giorni però, perché ormai l'inverno è alle porte, e allora ci dobbiamo ripensare di nuovo alla riattivazione del nostro impianto di riscaldamento e quindi anche della caldaia che utilizziamo per questo, ed è tempo appunto di farne la regolare manutenzione annuale, il controllo dei fumi, la manutenzione anche per monitorare l'efficienza energetica di questo impianto. E allora, in relazione all'intervento da fare, le scadenze sono diverse. Lo scadenzario è pubblicato dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Le istruzioni per il cittadino si chiamano proprio efficienza energetica degli impianti di riscaldamento, ma siccome poi ognuno, più che leggersi le istruzioni, vuole capire esattamente cosa fare a casa sua, noi organizziamo tutti gli anni la puntata di Salvadanaio e mettiamo insieme, come sempre, Pieraldo Isolani di Adiconsum e Luca Falco di Confartigianato, quindi un'associazione dei consumatori e un addetto ai lavori, per chiarirci bene le idee. Comincerei con le domande degli ascoltatori per poi ritornare appunto ai nostri ospiti, ed è Lino da Mantova il primo di oggi. Grazie per avermi chiamato. Sì, si metta vicino, non utilizzi il viva voce per carità, perché non sentiamo niente. Se può fermarsi con l'auto noi saremmo anche più tranquilli per lei. Sente meglio adesso? Sì, adesso sì. Bene. No, sono in macchina. No, la domanda che volevo fare è questa qui. In parte hanno già risposto all'intervento precedente per la periodicità degli interventi. La seconda domanda era questa qui. Io ho comprato casa dove già in precedenza veniva un manutentore a farlo. Ormai da 10 anni viene sempre quello, ma mi chiedevo... perché mi diceva il precedente proprietario che era stato l'installatore, poi è diventato manutentore. Beh, certo, comunque conosci. Ma se volessi cambiare, ci sono problemi, oppure i manutentori sono vincolati a delle marche per i quali, che so io, per una determinata marca va fuori uno, va... Certo. Va bene Lino. Beh, allora diciamo che magari nella situazione specifica c'è il buon senso del fatto che la persona che conosce la casa conosce appunto tutti i dettagli del macchinario che ha installato. Luca Falco, ma per fortuna viviamo in una situazione di mercato assolutamente libero, io non credo che sia vincolato Lino ad alcunché. No, lui può, come ho sempre detto anche nelle passate edizioni, noi ci siamo già incontrati, il cliente può cambiare il manutentore. Sicuramente se si affida un'assistenza tecnica del marchio, l'assenza tecnica autorizzata del marchio del generatore che è in casa, probabilmente potrebbe avere un servizio migliore, perché le centri senza tecnici autorizzati partecipano a corsi di aggiornamento e hanno più facilità nel riconoscere il guasto spesso o accedere ai ricambi. Però qualsiasi manutentore può accedere ai ricambi di quasi qualsiasi marchio, perché si possono comprare da dei rivenditori di ricambistica per caldaie, per cui non c'è alcun obbligo, uno può chiamare il manutentore di cui si fida e può cambiarlo se non si trova bene, purché sia un manutentore con le qualifiche professionali richieste dalla legge 3708. Quali sono? Con che patente si deve presentare a casa nostra un tecnico manutentore? Allora, uno potrebbe richiedere al manutentore il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, che però diventa un attimino complicato da richiedere, però è liberissimo di farlo. Però le abilitazioni professionali sono la lettera C, che è quella dell'impianto di riscaldamento, e la lettera E, che è quella del gas. Adesso sto andando a memoria, ma sono quelle due lì. Sono le due lettere che abilitano, sono due paragrafi che abilitano la costruzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento del gas. E alcuni manutentori hanno anche la lettera per gli impianti di distribuzione dell'acqua sanitaria, per cui o addirittura qualcuno è più completo, anche tutte le lettere riguardanti gli impianti relativi all'impiantistica elettronica o elettrica, piuttosto che gli impianti frigoriferi. Certo. Un argomento molto ampio. Ma sì, direi che insomma sfido poi qualunque tipo di utente, consumatore, a chiamare un tecnico e a chiedergli: guarda, presentati, ti faccio fare il controllo della caldaia solo se mi presenti tutta questa certificazione. Direi di no, però insomma mediamente sono tutti quanti a posto adesso, voglio dire. Però anche la pubblicità che ci arriva a casa, Falco, stavo pensando un po' come facciamo a capire se è, questa magari poi la rivolgo anche a Pieraldo Isolani, un buon tecnico quello che ci propone il suo servizio, oppure se è uno che magari, che ne so, fa un po' anche di gara sui prezzi ma magari non ci fornisce un servizio di buona qualità. Allora, sicuramente, essendo che poi soprattutto nel lavoro come nel commercio è il rapporto umano che conta, bisogna fidarsi soprattutto delle sensazioni che si hanno dalla persona che ci si trova davanti. Sicuramente deve essere una persona ordinata, deve essere una persona rispettosa del luogo di lavoro in cui si reca, deve essere una persona che non arriva di corsa, fa veloce perché deve scappare via, ma deve essere una persona che di fronte al generatore chiede informazioni al cliente, cerca di capire come il generatore viene usato per capire quali sono le parti che potrebbero essere più usurate e quindi consigliarne eventualmente la sostituzione. E non è solo un colpo di pennello, un timbro, una firma, come dico sempre in tutti i convegni, è una cosa un po' più particolare, cioè una manutenzione di una caldaia, di un generatore, è qualcosa di importante, di serio, perché se fatta male può causare l'intossicazione di chi ci abita. Infatti, di queste storie. Esatto. Anche una cosa importantissima, che è semplicemente un foglio, ma l'allegato deve essere scritto in maniera chiara, leggibile, e non deve essere pasticciato, non devono esserci delle righe sopra, perché quello è un allegato ministeriale che tutela il cliente e il manutentore, quindi è un documento importante, anche quello va compilato bene, quindi sono tutti piccoli particolari ai quali bisogna fare molta attenzione. No, anche perché poi non è detto che non possiamo essere controllati a casa nostra da tutti gli enti preposti appunto alla sicurezza di cui parlavamo prima, per cui è bene avere la documentazione in regola. E se perdiamo il libretto di impianto, Falco, che succede? Come facciamo? Allora, nel caso dell'ascoltatore che ha chiamato è abbastanza semplice, perché di solito i manutentori tengono copia di tutta la documentazione, affidandosi sempre allo stesso di solito si può avere tutta la copia. Cambiando spesso manutentore diventa difficile poi andare a chiamare il manutentore precedente, chiedergli la documentazione e averne copia, quindi mantenere un servizio, una continuità di servizio con un unico operatore. Certo, ci dà questo vantaggio, ovvio. Una cosa sola, sui 20 minuti che ho sentito prima, è impossibile fare una manutenzione in 20 minuti, io non ce la faccio, i miei operai non ci riescono e molti colleghi miei non ci riescono, 20 minuti sono pochissimi su un generatore. Perché considerate che ci si impiega quasi 10 minuti solo a scrivere documenti. No, ma la Isolani ha dato un range tra i 20 e i 40. Dai, spostiamoci intorno ai 40. 40 sono sufficienti o comunque è bene che almeno un'oretta un tecnico sia a casa 40, nostra? 60 secondo il tipo di generatore, giusto. A volte si sa anche di più. Isolani, ha trovato qualche manutentore che ha fatto il controllo a casa sua in una ventina di minuti? Si è fidato? Beh, noi riceviamo segnalazioni che stanno 10 minuti in casa, guardano un pochetto, riempiono il modulo e se ne vanno, ma queste non sono per fortuna le regole, per fortuna sono solo delle eccezioni. A me quello che preme è tenere informati i consumatori su quello che devono aspettarsi da quando il manutentore va in casa. Quello che volevo aggiungere, perché per molti la gran parte delle cose che ha detto Falco sono esatte, sono condivisibili, quindi non ho motivo di replicare. Quello che volevo anche aggiungere invece è un'altra cosa, che i consumatori devono stare attenti che quando arriva in casa il manutentore faccia tutte le cose che sono scritte nel cosiddetto documento allegato, perché non riguardano soltanto il controllo dei fumi, ma riguardano anche una serie di controlli di sicurezza molto importanti. E questo mi mette nelle condizioni di avere a seguito del controllo periodico, di cui le periodicità abbiamo parlato prima, di avere anche un livello di sicurezza abbastanza buono, perché come appunto è stato detto il manutentore deve fare anche tutta una serie di controlli che riguardano gli aspetti della sicurezza della caldaia e dell'impianto. Quindi non solo efficienza energetica, non solo controllo della combustione, quindi controllo dei fumi, ma anche controlli appunto relativamente alla sicurezza e alla funzionalità dell'impianto. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Sentiamo un po' il dilemma di Cinzia da Verona, che forse non riguarda la tipologia di impianto, il tipo di controllo, ma un altro aspetto. Cinzia, chi paga? Buongiorno. Intanto volevo dirle che io in casa l'abbiamo fatto giusto ieri il controllo. Quanto ha speso Cinzia? Annuale della caldaia e biennale dei fumi. Ho speso 90 euro. Mi sembra una cifra ragionevole. Per aver abbinato, diciamo, anche il biennale che ha anche installato l'impianto. Però il problema ce l'ho con appunto una persona che è in affitto, e allora volevo capire se è lei che, come secondo me, deve pagare, e come devo comportarmi se questa persona si rifiuta di fare questo controllo. Cinzia, questa è una bella domanda. Peraltro noi oggi abbiamo due esperti, diciamo, proprio tecnici, e adesso magari Isolani, appartenendo ad un'associazione dei consumatori, ci può dare una mano in questo senso. Direi che, allora, tante volte forse fra proprietario ed inquilino ci si può mettere anche d'accordo per fare una suddivisione della spesa, credo che sia una cosa anche in questo caso di buon senso. Credo che però se la caldaia si rompesse, magari la spesa è a carico del proprietario. Per il controllo di ordinaria manutenzione credo che qua però debba intervenire l'inquilino. Isolani? Sì, esattamente così, esattamente come hai detto tu. Cioè la manutenzione periodica è trattandosi di manutenzione ordinaria, di controlli ordinari, sono a carico dell'inquilino. La manutenzione straordinaria ci può essere qualche discussione, nel senso che specialmente se un inquilino è entrato in affitto con la caldaia già preesistente, un po' vecchia, eccetera, ma anche se la manutenzione straordinaria deriva dall'uso che ha fatto il medesimo inquilino di quella caldaia, anche la manutenzione straordinaria è a carico dell'inquilino. Soltanto, ripeto, se un inquilino entra in un appartamento in cui c'è una caldaia da molto utilizzata e deve per esempio cambiarla 3 mesi dopo, è chiaro che bisognerà intervenire. No, interessante anche l'altro aspetto che Cinzia sollevava, dice, ma insomma, se non lo faccio fare io questo controllo, l'inquilino si rifiuta, per magari proprio per non pagare questa cifra annualmente o in termini biennali, e io come mi devo comportare? Lei se lo vuole fare lo può fare tranquillamente, nessuno glielo vieta, però certo, la responsabilità è dell'inquilino, cioè è del conduttore della caldaia di fare l'impianto, e quindi se non lo fa lei può fare anche un'altra cosa, può segnalare questa negligenza alla struttura del comunale o del comune della provincia che fa i controlli e gli fa fare una verifica da parte dell'organismo tecnico del comune, e quindi pagherà quello che deve pagare. Luca Falco, volevo ritornare da lei per 10 secondi prima di sentire suggerimenti per chi è in viaggio, ma le capita di entrare in qualche casa in cui non ci si mette d'accordo su chi deve, su chi debba pagare, tra proprietario e l'inquilino? Deve gestire anche queste situazioni? Capita talmente spesso a volte che alcuni proprietari o alcuni inquilini si fanno mettere questa clausola nel contratto di affitto. Che mi sembra un'ottima idea, peraltro, perché patti chiari, amicizia lunga, se lo si stabilisce sin dall'inizio... Mi pare esatto. Ottimo, quindi magari insomma per chi avesse in mente adesso di stipulare un contratto d'affitto e non sa bene come comportarsi sulla revisione della caldaia, che comunque è un impegno economico annuale, magari che ci pensi per tempo, e quindi lo si sa fin dall'inizio e nessuno può contestare alcunché. 800 24 00 24 il numero verde per i vostri interventi. Peraltro le istruzioni per il cittadino del Ministero dello Sviluppo Economico che citavo prima non solo danno delle indicazioni sullo scadenzario dei controlli per l'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento riscaldamento delle caldaie, ma anche indicazioni molto interessanti sull'acquisto di una caldaia nuova. E perché no? Perché non approfondire anche questi aspetti? A tra poco. Allora, Vincenzo da San Marino, buongiorno. Ma sai che non ricevo quasi mai telefonate da San Marino? Che piacere. Buongiorno. Specifico che sono riminese italiano. Però uno dei famosi frontalieri. Eccoli, lì di passaggio stamattina. Ci dica, Vincenzo. Niente, io volevo puntualizzare un paio di cose. In primis il discorso dei 4 anni, 2 anni, a seconda delle direttive ministeriali, eccetera. Voi avete già ricordato, ma mi piacerebbe puntualizzare questo punto, che a seconda di quello che dice il costruttore della caldaia, quindi sul libretto del costruttore, bisogna tenersi a quello che dice il costruttore, perché altrimenti si può anche andare incontro a dei problemi eventualmente sulla sicurezza. Vincenzo, ma secondo lei c'è qualche costruttore che dice fatelo ogni 2 anni, che non dice comunque io, non ho mai trovati. Insomma, in linea di massima tendenzialmente tutti i libretti riportano questa dicitura che per la sicurezza della caldaia va fatta la manutenzione annualmente, perché altrimenti si può anche incorrere a dei problemi poi eventualmente con le assicurazioni e tutti i discorsi legati al caso. Questo è il primo punto. L'altro punto che volevo specificare è che ci sono caldaie, oggi come oggi la tecnologia è andata avanti, quindi esistono caldaie a condensazione che vanno, a mio modo di vedere, a mio parere personale, vanno assolutamente pulite tutti gli anni, e tutti gli anni gli va fatto il controllo di combustione, perché poi ci sono da fare delle regolazioni sulla valvola del gas e per una corretta combustione, perché altrimenti si rischia di far funzionare male uno strumento, un utilizzatore che comunque è molto delicato. Ma infatti, ma io, Vincenzo, guardi, il tema è che sicuramente nessuno può contestare tutto quello che lei ci diceva, è chiaro, sono delle piccole bombette che sono all'interno delle nostre abitazioni, che se non vanno adeguatamente controllate, cioè voglio dire, le stagioni cambiano, la meteorologia cambia, il materiale vanno incontro ad usura, anche se sono nuovi naturalmente, da un mese ad un altro possono esserci tanti problemi, quindi è chiaro il tema qualche volta è un po' che ci si scontra sui costi di tutte queste operazioni. Allora, prima magari di risentire Isolani e Falco, sento proprio su questo punto Roberto da Milano, perché il tema è che su quello che dobbiamo spendere non c'è mai chiarezza. Roberto. Sì, buongiorno. Anzi, Roberto, no, mi scusi, io volevo sentire Giuseppe da Milano. Roberto, aspetti lì un attimino, perché lei ha un altro argomento che non è quello che volevo. È Giuseppe quello che volevo. Sì, buongiorno. Buongiorno Giuseppe, ci dica. Sì, niente, io volevo appunto un chiarimento su quale potrebbe essere la cifra richiesta per questa manutenzione ordinaria della caldaia di un appartamento. Certo, allora Falco, tanto lo sapeva che saremmo arrivati a questo punto, dobbiamo dare delle cifre e lì, insomma, come ci si comporta? Perché si parte da questi numeri che abbiamo già dato, io credo che meno di 60-70 euro l'anno non si possa spendere proprio per una manutenzione banalissima. Allora, sicuramente meno di 60-70 euro l'anno è veramente difficile spenderli, perché comunque anche effettuare una manutenzione banalissima servono delle attrezzature che hanno comunque un costo, anche perché, come ha detto l'ascoltatore di prima, i nuovi generatori hanno bisogno di tarature micrometriche oramai, per cui anche l'attrezzatura deve avere della sensibilità maggiore, per cui purtroppo meno di quell'importo è difficile spendere. Ora, di solito e mediamente l'importo difficilmente può superare 110-120 euro come cifra massima, però varia molto dal tipo di manutenzione che viene effettuata, dall'usura che il generatore ha e da dove questo generatore è installato, quindi dare delle cifre e decidere delle cifre a livello nazionale sarebbe estremamente difficile. Io posso dirle che come Confartigianato stiamo portando avanti con uno studio di ingegneria gestionale uno studio di fattibilità per verificare la possibilità di indicare delle tariffe per il territorio nazionale, ma non è facile perché sono tante le variabili. No, certo, ci sono insomma degli appartamenti molto grandi che magari hanno un impianto che ha una determinata potenza, in un bilocale piccolo come il mio ovviamente, in cui un impianto ha una potenza nettamente inferiore, ma non so se anche quello è una variabile da considerare, Falco. Varia molto l'usura che ha il generatore, quindi quando io mi trovo di fronte al generatore, quanto tempo devo impiegare per riportarla alle condizioni iniziali. Senta, una Falco, cosa importante, sì, se posso, certo, perché noi parliamo sempre e solo di gas, ma c'è tutta una fascia di mercato che abbiamo sempre affrontato poco, che è il mercato del pellet e delle biomasse. No, ci sono delle domande anche su questo, allora ci dia qualche istruzione. Ottimo, allora ne parliamo poi dopo magari. Va bene, no, quello che volevo capire io, allora, per capire di nuovo, ritornare con un po' di precisione sullo scadenzario dei controlli. Io abito in un appartamento di 50 metri quadri, Falco, compro la caldaia nuova, quella, la caldaietta con una potenza inferiore a 35 kWh. Cosa devo fare il prossimo anno? Ci spiega che cosa, che spesa devo sostenere? Il controllo, il primo controllo che faccio l'anno prossimo, esattamente qual è la sua definizione? È il controllo sulla, è la manutenzione, è il controllo dei fumi, come si chiama esattamente? Ecco. È la manutenzione ordinaria indicata nel libretto di istruzioni fornito dal produttore dell'apparecchio. Quindi uno quando va a acquistare il generatore, infatti sono quelli i consigli che dà il Ministero, prima di acquistare il generatore verificare cosa indica il produttore dell'apparecchio, quali controlli devono essere obbligatoriamente effettuati, perché proprio chi costruisce l'apparecchio che sa quali tipi di controlli devono essere effettuati. Un'altra parte fondamentale è quella che ha l'installatore, perché lui sceglie un generatore in funzione dell'uso che ne sarà fatto, comunque dalla descrizione dell'uso che vorrà fare l'utente finale, e quindi anche lui potrà dire questo generatore per l'uso che è stato studiato comunque dovrà essere controllato una volta l'anno piuttosto che anche una volta due, però bisogna verificare sempre cosa dice il produttore del generatore. Allora mi chiedo, Pieraldo Isolani, perché avete fatto anche voi delle battaglie affinché il Ministero dello Sviluppo Economico fosse assolutamente preciso, no, su tutta questa tematica, cosa ci servono tutte queste istruzioni se poi siamo oggetto comunque ancora una volta del solito mondo pieno di eccezioni, se comunque il nostro riferimento è chi ci ha installato il costruttore appunto della, dell'impianto? Dunque, cerchiamo di fare un po' di chiarezza, perché se no la vita si sta complicando. Allora, quello che è obbligatorio sono le date che sono state dette, i controlli che sono indicati o dall'installatore o dal libretto di manutenzione. Non sono controlli obbligatori, sono indicazioni fatte dal costruttore che io posso rispettare o non rispettare. Questo è molto importante, perché faccio l'esempio della macchina: il costruttore mi dice di fare il tagliando ogni 20.000 km, ma io posso anche non rispettarlo. Io consiglierò sempre di rispettarlo personalmente, ma non c'è un obbligo, e questo è il primo problema. Secondo problema di sicurezza, allora io credo che se compro una caldaia nella quale c'è scritto, se un consumatore viene da me e mi dice ho comprato una caldaia nuova, nel libretto di manutenzione c'è scritto che dopo un anno io devo fare la manutenzione ordinaria, io gli dico che ha sbagliato a comprare la caldaia, perché non è ammissibile che io possa spendere dei soldi dopo appena un anno che ce l'ho in casa. E questo è un altro tipo di discorso. Quindi bisogna sapere bene di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando dell'obbligo? Sono quelli che abbiamo detto. Stiamo dando dei consigli di buon senso, avere e gestire al meglio? È un altro problema. Io sostengo e credo di essere nel giusto che gli adempimenti, le operazioni che sono previste nei controlli periodici sono operazioni che sono sufficientemente adatte a garantire anche la sicurezza, anche perché la sicurezza è al 100% non la può mai garantire nessuno, perché se dopo un mese che ho fatto il controllo c'è una rondine, dei fumi, io muoio per il monossido di carbonio e non Vabbè. Ci sono sani. Allora Isolani, io devo terminare. Bisogna avere dei discorsi equi, perché i costi sono pesanti. E io non sono d'accordo con Falco che si possa spendere 110 euro per una controllo annuale medio. Mannaggia che la parte più interessante della trasmissione l'abbiamo lasciata alla fine, quando devo concludere, perché sentite già che la nostra sigla sta partendo. Allora, non riesco ad accontentare Roberto che ci diceva che non ha fatto la manutenzione lo scorso anno, cosa va incontro Milano. Roberto, ci scriva, le risponderemo, così come sulle stufe a pellet e gli altri tipi di impianti non siamo riusciti ad entrare. Falco, 3 secondi glieli concedo. Falco? Non è proprio così, perché il Ministero ha dato delle indicazioni relative al risparmio energetico e non sulla sicurezza, perché come Isolani sa, la direzione che ha promulgato queste indicazioni era quella relativa al risparmio energetico e non poteva dare indicazioni relative alla sicurezza. È stato difficile mettere quel riquadretto in netto. È durissima, questa è una battaglia che portiamo avanti da 4 anni, non ne verremo mai fuori. Allora, magari per gli impianti a pellet e per tutte le altre cose ci risentiamo fra una decina di giorni, ma così almeno risolviamo anche tutte queste questioni che sono venute fuori, ovviamente come sempre l'ultima parte della trasmissione. A domani.